Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Il primo appuntamento di questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori è insieme all'avvocato Gioia Barbato dell'Ufficio Legale. Bentrovata. Ciao Mirko, buongiorno a tutti. Dunque, parliamo di un caso che insomma fa scuola, fa anche proverbio spesso, che sono le liti condominiali e tu in particolare te ne occupi all'interno dell'Adico. Esatto, sì, soprattutto in quest'ultimo periodo si è registrato un aumento vertiginoso delle liti condominiali, di tutti i problemi legati alla casa e al condominio. Ecco, e che problemi ci sono? Insomma, ci sono tante trasmissioni televisive, cito Forum, che è forse la più antica, che insomma ha trattato moltissimi casi e moltissimi credo si possano raccontare anche in questi giorni, le cronache di giornali ne hanno raccontati. Voi che numeri, che panorama vedete? Beh, guarda, solo per darti qualche dato numerico, nell'ultimo periodo, ovvero nel 2012, si è registrato un aumento di oltre 65.000 sfratti in Italia. Quindi, solo per darti una percentuale, quest'anno, parlo del 2012, gli sfratti sono aumentati dell'80%, ed in particolare gli sfratti cosiddetti per morosità, ovvero quando l'inquilino sostanzialmente non paga il canone di locazione. E diciamo che questa è l'ipotesi più frequente che si presenta anche a noi di Adico. Un caso, quella della morosità, che si riesce ad applicare, perché so che l'inquilino spesso in questi casi ha più tutele addirittura del proprietario. Quasi, sì, esatto. Diciamo che in realtà la procedura di sfratto per morosità funziona in questi termini. Nel momento in cui l'inquilino non paga tempestivamente, quindi nei termini, oppure non paga addirittura il canone di locazione, il proprietario ha la possibilità di fare ricorso al tribunale per effettuare quello che è poi lo sfratto per morosità esecutivo. L'inquilino in realtà è molto tutelato dal nostro ordinamento giuridico, perché ha la possibilità in sede di prima udienza di chiedere il cosiddetto termine di grazia. Il termine di grazia non è altro che un termine che viene concesso dal giudice, è quasi un diritto che viene applicato automaticamente a favore dell'inquilino. Insomma, questo termine è di circa 90 giorni che viene concesso dal giudice per sanare la morosità. Se entro questi 90 giorni l'inquilino ha provveduto a saldare tutti i debiti, cosa che, apro e chiudo parentesi, non succede quasi mai, ovvero per il 95% dei casi non succede, il proprietario può chiedere solo in seconda udienza l'esecutività dello sfratto. Ecco, questo più o meno è quello che succede quando si verifica un ritardo nel pagamento dei canoni o un mancato pagamento. E questa, diciamo che per noi di Adico, è una delle ipotesi più frequenti. Soprattutto nell'ultimo periodo abbiamo avuto veramente tantissime segnalazioni. Mentre per quanto riguarda i motivi di contesa, di litigio? Ah, quelli sono i più svariati, quelli potrei stare al telefono una giornata a raccontarteli. Allora, principalmente, diciamo, l'oggetto del contendere riguarda la ripartizione delle spese condominiali, oppure nel caso in cui ci venga deliberato un lavoro straordinario, la scelta del professionista a cui affidare i lavori, oppure molto frequentemente capitano contestazioni nel caso di rumori molesti, oppure odori fastidiosi che poi invadono l'intero condominio, l'occupazione di spazi comuni anche mi è capitato di affrontare. E solo per farti un esempio, nell'ultimo caso addirittura, nell'ultimo caso che ho trattato ad Adico, un socio lamentava il fatto che, vabbè, abitando all'ultimo piano di una palazzina condominiale, i condomini non volevano permettere l'accensione dell'autoclave, che sostanzialmente è quel meccanismo che permette di aumentare la pressione dell'acqua in maniera tale di pomparla, tra virgolette, agli ultimi piani. Ecco, quindi l'oggetto del contendere era il fatto che il nostro socio, quindi il condomino dell'ultimo piano, non poteva usufruire del servizio di erogazione dell'acqua, mentre dall'altro lato i condomini lamentavano il fatto che l'accensione dell'autoclave era una strumentazione troppo rumorosa che pregiudicava il loro vivere quotidiano. Ecco. Bisognava mettere insieme due esigenze diverse, esatto. Evidentemente. E è stato molto difficile conciliare, anche se ovviamente noi dell'Adico l'abbiamo avuta vinta, nel senso che cerchiamo sempre di tutelare il più possibile il socio. Ecco, voi soprattutto da quando avete rinnovato il sito associazionedifesaconsumatori.it avete messo in evidenza anche proprio un particolare settore, un vero e proprio sportello per il settore condomini. Esatto, sì, è una sorta di sportello virtuale che viene chiamato sfratto e condomino, che è opportuno precisare che non riguarda solo lo sfratto in quanto tale, quindi la tutela dell'inquilino o eventualmente del proprietario e il condominio, ma riguarda anche tutto ciò che riguarda la casa a 360 gradi, quindi tutti i vari problemi che si possono incontrare quotidianamente in casa, quindi dai prodotti difettosi oppure anche alla scelta dello stesso immobile, nel senso che ci è capitato molte volte di tutelare il nostro socio nei rapporti con l'agenzia immobiliare che voleva applicare una provvigione per l'effettuata vendita che non era consona rispetto a quella prevista per legge o comunque non era stata preventivamente pattuita. Quindi viene chiamato sì sportello sfratto e condominio, però investe l'aspetto della casa a 360 gradi. Ecco, c'è anche un interessante vademecum che mettete a disposizione sul sito, dove ci sono ad esempio le risposte alle domande più frequenti che riguardano appunto il settore casa, canoni, pagamenti, insomma le questioni sono tante, poi non è che uno necessariamente debba essere esperto proprio di tutte le normative, anche se è tenuto a conoscere ovviamente il regolamento di condominio, il regolamento municipale, no? Esatto, sì, dici bene, noi abbiamo pensato di intanto fare questo piccolo vademecum in maniera tale che una qualsiasi persona che si accosta appunto ad uno di questi determinati problemi abbia la possibilità in via preventiva di tutelarsi, anche perché è importante sottolineare che lo scopo di Adico è vero che è quello di tutelare il consumatore, ma è principalmente quello di risolvere la vicenda in via stragiudiziale, quindi per cercare di individuare un accordo. Quindi nel caso in cui, solo per farti un esempio, ci occupiamo di uno sfratto e sia l'inquilino a rivolgersi ad Adico, il nostro scopo è quello di cercare magari una soluzione in via transattiva, quindi di individuare un piano di riparto per sanare la morosità senza che il proprietario sia poi costretto ad andare in giudizio, oppure nel caso contrario, nel caso sia il proprietario che sia nostro socio, cerchiamo anche qui di trovare una soluzione in via transattiva per cercare di posticipare il più possibile quello che è poi il giudizio, perché parliamoci chiaro, è vero che il giudizio tende a tutelare un qualsiasi cittadino, però è anche vero che poi si vanno incontro a dei costi, a dei tempi, a delle lungaggini processuali, insomma è sempre meglio, secondo il nostro avviso, risolvere il tutto in via transattiva e quindi in via bonaria. Bene, allora con questo consiglio diamo ancora il sito www.associazionedifesaconsumatori.it per questi problemi condominiali, ma anche per altre questioni sulle quali torneremo anche nei prossimi appuntamenti. Grazie all'avvocato Gioia Barbato, grazie a voi. Buona giornata. Grazie anche a te. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.